Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'uniforme e in particolare diciamo i carabinieri, che hanno questo compito di essere una polizia di prossimità, deve essere qualcosa a cui i cittadini si rivolgono per avere rassicurazioni e sicurezza. E se invece qualcuno ha utilizzato questo uniforme per avvicinare due ragazze e per quindi prenderle in un momento di debolezza e difficoltà, ecco, la gravità è inaudita. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha detto questa sera la ministra della difesa Pinotti, che era una manifestazione, un evento importante qui a Milano, a proposito di questa notizia, di cui se avete seguito la radio, avete visto TV, i siti eccetera, avrete in parte almeno contezza, cioè del fatto che due carabinieri di Firenze sono accusati di aver stuprato due ragazze americane. Erano intervenuti in una rissa in discoteca, poi le avevano accompagnate per sicurezza a casa e lì avrebbero abusato di loro, secondo quanto raccontano le ragazze, nell'androne del loro palazzo. Adesso quindi indaga la Procura di Firenze, ma anche la Procura Militare di Roma ha aperto un fascicolo su queste presunte violenze sessuali. Ne parleremo, sentiremo altri passaggi di quello che ha detto la Ministra della Difesa Pinotti. E poi, fra i temi di cui ci occuperemo, ovviamente, come avevo annunciato in questi giorni, dei vaccini, perché attenzione, la scadenza sarebbe domenica 10, ma insomma entro lunedì chi ha bambini che vanno al nido o all'asilo deve produrre i certificati delle vaccinazioni obbligatorie per poi i più grandi, cioè dalle elementari fino a tutte le scuole dell'obbligo fino alle superiori. La scadenza è il 31 ottobre, ma per asili, nido e per la scuola dell'infanzia, insomma, la scadenza è lunedì. Quindi se avete delle domande, dei dubbi, perché sapete che questo argomento quanto sia dibattuto, quanti scontri, polemiche eccetera, fatele stasera qui Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte, scrivete lì direttamente oppure al numero in diretta per WhatsApp ed SMS, che è 349 238 6666, perché tra poco, dopo che vi faccio il riassunto della giornata come sempre, ci sarà un esperto dell'ISS, dell'Istituto Superiore di Sanità, che risponderà a tutte le vostre domande. Quindi levatevi i dubbi, 349 238 6666, o pagina Facebook di Effetto Notte. Poi ci collegheremo con Venezia, perché sapete che domani si chiude la mostra internazionale del cinema. C'è già il Toto Leone, ovviamente, visto che domani verranno assegnati i leoni. Si parla in particolare di due film, poi capiremo quali. Intanto, mentre voi formulate le vostre domande, i vostri dubbi, vi racconto qual è in sintesi stata la giornata di oggi. Catastrofi naturali in Messico, la più forte scossa da un secolo, almeno 36 morti, crolli in molte città, e negli Stati Uniti prosegue la folle corsa dell'uragano Irma, 20 le vittime. Firenze, due carabinieri indagati per l'accusa di aver violentato due ragazze americane. La ministra Pinotti afferma risulta una qualche fondatezza e se così fosse sarebbe gravissimo. Zanzare, casi di infezione di chikungunya, stop alle donazioni di sangue ad Anzio, vicino Roma. Vaccini, mancano 3 giorni alla scadenza per mettersi in regola per i bimbi che vanno a nidi e asili. Effetto Notte, le risposte ai vostri dubbi. Cinema, domani la serata finale del Festival di Venezia con la consegna del Leone d'Oro. Calcio, allerta meteo a Genova, rinviata a Sampdoria-Roma di domani. Ci sarà solo l'anticipo Juve-Chievo. Partiamo quindi da questi terribili fenomeni naturali che si stanno succedendo in queste ore, in questi ultimi giorni, si stanno manifestando tra Stati Uniti e Messico. Iniziamo innanzitutto dal terremoto in Messico. Il bilancio ancora provvisorio è salito a 36 vittime. La scossa più forte del secolo, con la terra che trema per un minuto intero e colpisce il sud e il centro del Messico, toccando magnitudo 8.2, racconterà così il presidente messicano Enrique Peña Nieto. Una scossa che ha ucciso per ora 32 persone, ma molti sono ancora i dispersi, come racconta questa ragazza abitante di Matias Romeo, un paese nello stato di Oaxaca. Abbiamo bisogno di aiuto ora, dice, di persone che diano immediata ospitalità a chi è per strada, e poi abbiamo bisogno di volontari per rimuovere le macerie. Stiamo lavorando per trarre in salvo almeno 4 persone ancora intrappolate sotto le macerie di un hotel. Lo stato di Oaxaca è uno dei più colpiti assieme a Chiapas e Tabasco. L'epicentro a nord dello stato del Chiapas, danni, almeno 20 di vittime sono segnalate anche in Guatemala. La violenza della scossa è stata avvertita anche a Città del Messico, oltre 1000 chilometri di distanza dall'epicentro. L'unica notizia positiva positiva è che è stato revocato l'allerta tsunami. Per il resto sappiamo che questa forte scossa ha colpito un'area del paese già molto povera e i problemi non tarderanno a farsi sentire. Quello che preoccupa inoltre sono le repliche, che finora sono state 65. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E negli Stati Uniti sono gli uragani a far paura, Irma in particolare, ne abbiamo parlato ieri ampiamente. Irma continua a fare paura nella sua corsa verso la Florida, dove dovrebbe arrivare domenica. Ad attenderla una Miami spettrale, con le grandi strade, i grandi viali lungo il mare deserti e gli alberghi con vista mozzafiato sull'oceano vuoti. Davanti a negozi e abitazioni sono state messe paratie di legno e sacchetti di sabbia. Nell'intera contea di Miami è un esodo di massa senza precedenti. Sono almeno 650.000 le persone evacuate, ma non è facile andare via. Intere famiglie stazionano alle fermate del bus nella speranza che la propria corsa non sia stata cancellata. A complicare tutto l'emergenza carburante, che ormai da un paio di giorni scarseggia. La testimonianza di Isabel Larsen di Mantova, neolaureata all'Università di Miami. Adesso mi trovo ad Orlando, siamo in direzione per Alabama, ma con il piano di fermarci a Tampa, perché è fuori dalla zona di evacuazione. Molto traffico, le strade sono bloccate e non c'è benzina. I distributori sono fuori servizio e stanno arrivando le scorte di benzina con i militari. Per i pochi che sono rimasti a Miami la vita non è facile, oltre alla mancanza di benzina comincia a scarseggiare anche l'acqua e gli scaffali dei supermercati sono ormai vuoti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso in Italia, come vi dicevo, sono indagati due carabinieri accusati da due ragazze statunitensi di averle violentate a Firenze nella notte tra il 6 e il 7 settembre. I due militari erano intervenuti in una discoteca per disordini, poi secondo l'accusa delle ragazze le avrebbero accompagnate a casa e lì nell'androne del palazzo avrebbero abusato di loro. Le studentesse, ascoltate separatamente dagli inquirenti, avrebbero ribadito le accuse e fornito una versione che non risulta contraddittoria al vaglio degli investigatori. Prendiamo queste accuse molto seriamente, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano, e la ministra Pinotti a Milano per un evento, come vi dicevo, ha commentato così. Con l'attenzione del fatto che appunto gli accertamenti sono ancora in corso, però dai primi risulta una qualche fondatezza. Si tratta di un episodio gravissimo. Ne torniamo a parlare dopo, come vi dicevo, e adesso invece, dopo la tragedia della bambina morta per malaria, si torna a parlare di zanzare. Nuovo caso di malattia trasmessa dalle zanzare, questa volta ad Anzio, cittadina del litorale laziale a pochi chilometri da Roma, dove tre persone hanno contratto la chikungunya, una malattia virale caratterizzata da febbre acuta ma che raramente causa complicazioni. I tre malati hanno mostrato i sintomi ad agosto senza essere stati prima all'estero e probabilmente sono stati punti da una zanzara presente in zona. Quello di Anzio non è il primo caso di chikungunya in Italia. Nell'agosto del 2007 sono stati infatti registrati casi autoctoni in Emilia-Romagna. La malattia può essere trasmessa anche dalla zanzara tigre. Le persone colpite ad Anzio ora sarebbero bene, ma con una circolare inviata oggi sono state bloccate comunque le donazioni di sangue per 28 giorni per chi ha soggiornato nel comune. La regione Lazio rassicura e spiega che la situazione è sotto controllo. L'Istituto Superiore di Sanità già da ieri ha posizionato esche speciali nelle aree dove eventualmente sono presenti le larve e si procederà a una disinfestazione. Rassicurazioni arrivano anche dalla Federazione delle Associazioni di Donatori di Sangue, la FIDAS. Il sangue in Italia, spiega il presidente Aldo Onzini Caligaris, è al massimo livello di sicurezza. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo di vaccini, perché mancano tre giorni alla scadenza per mettersi in regola per quanto riguarda i bambini che vanno a nidi e ad asili. Tra poco effetto notte, vi dicevo, le risposte ai vostri dubbi e comunque alle domande più frequenti che si fanno su questo argomento. Vi ricordo o sulla pagina Facebook di Effetto Notte, scrivete le vostre domande, oppure al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. La politica ora, con in primo piano Renzi in Sicilia e il Movimento 5 Stelle che festeggia il decennale del V-Day. Il Movimento 5 Stelle alle prese con il decimo anniversario del Vaffadei, il PD invece con le elezioni in Sicilia. Siamo a un passo dal traguardo, l'onda non si è ancora arrestata, a scriverlo Beppe Grillo sul blog, ricordando la nascita del Movimento. In 10 anni ci sono state emozioni, eventi straordinari, traguardi spettacolari, scoramenti, addivi, lutti e gioie. Eppure siamo ancora più forti di prima e forse a un passo dal traguardo storico del D-Day. Ricordo che che io e Gian Roberto ci abbracciammo forte e anche oggi vorrei che fosse qui. In Sicilia invece il segretario PD Matteo Renzi, che presenta il candidato Fabrizio Micari, ma avverte: l'isola non è una cavia, non è un sondaggio per le politiche, per guidare la regione serve competenza, sottolinea Renzi sul rettore dell'Università di Palermo, e la competenza non può essere parolaccia. Poi il segretario PD si sofferma anche sulla ripresa che c'è, spiega, ma l'Italia è ancora divisa in due tra nord e sud. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la notizia della nomina del commissario straordinario per il terremoto, per la ricostruzione nelle regioni colpite il 24 agosto 2016 dal terremoto Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. È stata nominata la sottosegretaria all'economia e alle finanze Paola De Micheli. Ci sono delle novità per i buoni pasto. Da domani entra in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che permette di spendere anche 8 buoni pasto alla volta per fare la spesa e che allarga la possibilità anche del loro utilizzo. Potranno essere infatti usati anche nei mercatini, negli agriturismo, negli spacci aziendali. Finora era possibile usare un solo ticket al giorno, invece avete sentito adesso anche 8 al giorno. Resta in vigore comunque il divieto di cederli a terzi ed è esclusa la possibilità di avere il resto. C'è poi lo stop ai centurioni, no? Di cui si è parlato molto con tira e molla. Il Consiglio di Stato boccia i centurioni, dà ragione quindi al Comune di Roma. I giudici della quinta sezione hanno infatti respinto il ricorso presentato contro il divieto disposto da Roma Capitale di qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico in fotografia o filmati dietro il corrispettivo di denaro, e ha confermato quanto già disposto dal TAR. Quindi niente centurioni a Roma. Arriva anche un'altra notizia che riguarda Sanremo. Ci sarebbe anche Beppe Fiorello nella squadra dei conduttori che affiancheranno Claudio Baglioni, come vi ricordavo in questi giorni, neo direttore artistico, alla guida del prossimo festival. Il volto di tante fiction, appunto Beppe Fiorello, targate RAI, è già stato sul palco dell'Ariston come ospite nel 2016. Per il cinema, come vi anticipavo, domani è la serata finale del Festival di Venezia con la consegna dei Leoni d'Oro e ci faremo poi raccontare quali sono i film più papabili. Vi voglio anche parlare delle qualità straordinarie, a quanto pare, della mela Nurca, questa mela campana. Nutraceutici a base di mela Nurca fermano le calvizie e fanno ricrescere i capelli, e quanto scoperto da uno studio dell'Università Federico II di Napoli sui polifenoli del frutto campano EGP, e questo pubblicato questo studio sulla rivista internazionale Journal of Medicinal Food. Per combattere il diradamento dei capelli e rinfoltire chiome ridotte male sia negli uomini che nelle donne, dopo alcuni mesi di utilizzo sperimentale, la formulazione in integratori nutraceutici è ora disponibile in tutte le farmacie della Campania e del Lazio e presto lo sarà anche in tutta Italia. Ma chissà se davvero sarà così miracoloso. Per chiudere il calcio, con il campionato che torna domani ci sarà però un solo anticipo, perché a causa dell'allerta meteo su Genova è stata rinviata in via precauzionale Sampdoria-Roma, in campo quindi alle 18 solo la Juventus a Torino contro il Chievo, una Juve in campo tutta rinnovata. Sentiamo a questo proposito il tecnico Allegri. Se a fine stagione la squadra ha fatto una stagione importante, quando parlo di stagione importante vuol dire arrivare a marzo come tutti gli anni ed essere a lottare per le 3 competizioni, anche se quest'anno la Coppa Italia direi si gioca prima, perché già a dicembre giochiamo i quarti di finale, e quindi siamo pronti per ripartire. Inizia la stagione perché le prime 2 partite fanno parte di un primo pezzo di stagione, e ora inizia la stagione vera con un mese dove abbiamo 7 partite, di cui 5 di campionato e 2 di Champions. Ecco, a questo punto, quindi con lo sport, direi che si è esaurito il racconto, la sintesi del racconto della giornata. Tra pochissimo, quindi adesso c'è la viabilità, aggiorniamo chi sta viaggiando e poi facciamo un po' di chiarezza sulla questione vaccini, quindi anche con le vostre domande sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure mandandole con SMS o WhatsApp al 349-238-6666. Ora Fabio scrive su un altro argomento, dice: il dramma del tornado colpisce molto di più i Caraibi, perché ci si occupa soltanto degli Stati Uniti? Fabio, dove eri ieri sera? Non ascoltavi Effetto Note? Abbiamo parlato ampiamente dei Caraibi, della devastazione anche al 90% di alcune piccole isole, dei danni, dei disastri. Dove eri, Fabio? Dopodiché, invece, chiedo a Maria da Roma, che ha mandato una delle domande sui vaccini, di scrivere un po' più chiaramente, perché è un pochino arzigogolato. Io poi lo sottoporrò all'esperto tra pochissimo, però di essere più chiara nella formulazione della sua domanda. Tra poco. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, di nuovo con voi. Avete formulato le vostre domande, state pensando a cosa chiedere per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie, perché... lunedì è il termine ultimo per mettersi in regola per chi ha figli che vanno al nido o all'asilo, quindi alla scuola d'infanzia, e poi invece il termine per gli altri che vanno più o meno dai 6 ai 16 anni, quindi dalla scuola dell'obbligo, dalla scuola elementare fino alla scuola superiore ai 16 anni, il termine ultimo è il 31 ottobre. Ci sono aspetti sanitari e aspetti burocratici anche per le vostre domande, per diciamo i dubbi che vengono posti più frequentemente. Vi ricordo, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure scrivete al 349-238-6666. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21 fra poco, quali sono le notizie più importanti. Stavo scrivendo, stavo guardando, ecco, anche un altro messaggio che è poco chiaro, insomma, vedo che idee un po' confuse sull'argomento. Le notizie. Violento terremoto in Messico, almeno 36 morti, crolli e paura. Intanto Florida in fuga per l'uragano Irma, e poi c'è l'allarme maltempo in Italia, di cui anche parleremo questa sera. Per quanto riguarda i vaccini, le scadenze che vi ho ricordato, e poi alcuni genitori che parlano nella loro esperienza come di un'odissea, con scuole sommerse poi dal lavoro, code eccetera, capiremo come stanno le cose. E questi casi di infezione di chikungunya ad Anzio, vicino Roma. Renzi in Sicilia, per quanto riguarda la politica, che dice non sarà quello del 5 novembre in realtà un test nazionale, mentre il Movimento 5 Stelle oggi ha celebrato il decennale del Vaffadei. Accusati di violenza sessuale, indagati due carabinieri a Firenze, il dipartimento americano di aver violentato due ragazze americane, il dipartimento statunitense dice prendiamo le accuse molto seriamente, e poi avete sentito anche i commenti della ministra della difesa Pinotti. E la Catalogna in Spagna che si ribella a Madrid e corre verso il referendum, e poi Venezia, Toto Leone, domani si chiude. Quindi occupiamoci del grande dibattuto tema dei vaccini, diventato anche oggetto di furenti polemiche politiche, di annunciati ricorsi, di regioni che hanno annunciato a loro volta posizioni divergenti, come il Veneto di Zaia, che intende rivolgersi al Consiglio di Stato. In un primo tempo, in questi giorni, avevamo raccontato che aveva deciso per una moratoria fino al 2019, cioè dar tempo a tutti di mettersi in regola fino al 2019. Poi insomma, hanno scritto una lettera alle ministre dell'istruzione e della sanità, e per il momento ha sospeso la sospensione. La moratoria sarebbe una sospensione, però ha deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato. In ogni caso, c'è un decreto del governo che rende obbligatorie 10 vaccinazioni per i minori tra i 0 e i 16 anni. Le scadenze per essere in regola sono imminenti, come vi ricordavo, per potersi iscrivere e frequentare asili e scuole sino ai 16 anni. Siamo quindi a 3 giorni dalle prime scadenze per la consegna dei certificati di vaccinazione alle scuole d'infanzia, nidi e asilo, da nord a sud. Gli istituti vengono presi d'assalto, mancano ancora tanti certificati, però cerchiamo di capire, di fare un po' di chiarezza, perché forse c'è anche un po' di confusione, c'è un po' di agitazione, con il dottor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Rezza, buonasera, benvenuto. Buonasera, come va? Bene, lei come sta? La caviamo, un po' c'è un'emergenza dopo l'altra. Beh, appunto. E infatti, allora, quando io l'ho chiamata, lei ieri era a Trento, no? Per questa tragedia della bambina morta per malaria. Oggi poi si occupava anche, come si pronuncia questa... Chikungunya. Queste zanzare ci impensieriscono, ci sono stati dei casi ad Anzio. Di cosa si tratta? Sì, ma c'erano già stati 10 anni fa più di 200 casi. Provincia di Ravenna, andai proprio io a fare indagine, ricordo, e era l'estate del 2007, era stato introdotto questo virus tropicale dalle nostre zanzare, le zanzare pigre, ed è Salbopictus, il termine tecnico, diciamo. Sono in grado di trasmettere questo virus, e effettivamente ci fu anche lì un focolaio, però un focolaio più grande apparentemente di questo che adesso abbiamo ad Anzio, vicino a Anzio. È una malattia virale, dopo, no? La disinfestazione, sì, certo, dopo la disinfestazione i casi cominciano immediatamente a scendere perché la densità delle zanzare diminuisce quando si disinfesta pesantemente. È un virus tropicale che dà una malattia acuta, non grave in genere, è una malattia, diciamo una febbre che può essere più o meno elevata, nella metà dei casi circa c'è un'eruzione cutanea un po' pruriginosa, ma diciamo che il fastidio maggiore è quello dei dolori articolari che talvolta possono durare anche più a lungo della malattia, che invece dura pochi giorni in genere. E fastidioso, naturalmente, questo sì, per fortuna nella stragrande maggioranza dei casi si autolimita, non ha bisogno di trattamenti, passa velocemente, se non l'antipiretico, l'antidolorifico, ecco. Invece, dottor Rezza, per andare sul tema dei vaccini, allora, innanzitutto per spiegare a molti che si chiedono e che in questi giorni hanno e queste settimane, mesi protestato, no? Prima di tutto, perché si è reso necessario questo decreto per le vaccinazioni obbligatorie? Sì, ecco, io volevo fare una breve premessa. Sì, sì. Nessuno è contento di fare, come di obbligare a vaccinare, no? Perché? Perché chi, soprattutto chi vive nella comunità scientifica, è talmente convinto che i vaccini facciano molto più bene rispetto a quanto non possano far male, che naturalmente si meraviglia, addirittura quando qualcuno professa una certa opposizione, paura nei confronti di questo importante strumento preventivo. Qual è il punto? Che però, siccome le coprettate veloci, diciamo, qualcuno ci dice, no, ma come nel nord Europa non c'è l'obbligo vaccinale, eppure le coperture vaccinali sono alte nel nord Europa, purtroppo nel sud Europa, da noi in particolare, non sembrano essere così alte. Noi avevamo assistito nel giro di 3 anni ad una diminuzione delle coperture vaccinali, cioè della percentuale, diciamo, di genitori che vaccinano i propri figli, questo dopo è di fatto il punto, no? E si era scesi sostanzialmente al di sotto, anche per le vaccinazioni, noi avevamo già 4 vaccini obbligatori, però questa obbligatorietà non veniva mai troppo rispettata, no? E eravamo scesi al di sotto della fatidica soglia del 95%, per il morbillo addirittura, una vaccinazione raccomandata, era raccomandata, non obbligatoria, eravamo scesi dal 90% all'85%. Allora, che succede? Perché questo, dico, questi non sono numeri magici. Il morbillo è una malattia particolarmente contagiosa. Quindi si sono fatti modelli matematici, grandi studi per vedere qual è la soglia di copertura vaccinale che fa sì che il virus non circoli più. Perché? Perché la vaccinazione ha un doppio effetto con la maggior parte, nei confronti della maggior parte degli agenti patogeni. Uno, quello di proteggere direttamente chi viene vaccinato. Per esempio il tetano non si trasmette da persona a persona. Però io vaccino e quella persona che viene vaccinata, anche se si ferisce in maniera consistente, non sviluppa il tetano perché è protetto dalla vaccinazione. Così chi si vaccina contro il morbillo è protetto dalla vaccinazione, ma il morbillo è molto contagioso. Però, dottor Rezza, scusi, a diffondersi nella popolazione. Proprio a proposito, se noi vacciniamo tante persone, si raggiunge quella che è la soglia dell'effetto gregge. L'immunità di gregge. Anche se io non riesco a vaccinare delle persone, anche se queste persone non possono vaccinarsi perché magari sono immunodepresse, non rispondono ai vaccini, non possono fare il vaccino perché altrimenti rischierebbero le conseguenze perché immunodepresse, io le proteggo perché sostanzialmente impedisco al virus di circolare. Quindi questa è la spiegazione del perché di questo decreto. Adesso le sottopongo le varie domande, vediamo se riesco a riprendere quella che avevo visto prima, per esempio, di questo ascoltatore che dice in questo momento si fa un vaccino esavalente, più altri tre. Quando si parla di 10 vaccini obbligatori, significa che in pratica se ne fa solo uno in più rispetto a prima? Beh, praticamente si fanno due punture, perché l'esavalente era composto dai quattro diciamo, vaccini obbligatori, quello contro il tetano, difterite, polio, epatite B, più il vaccino contro la pertosse e contro l'emofilo, entrambi molto importanti, perché la pertosse nei neonati può dare gravi conseguenze, l'emofilus da addirittura meningite. Allora che succede? Che con una sola puntura sostanzialmente noi proteggevamo contro sei malattie, giusto? Adesso che succede? Quindi, siccome molti dicevano, ma come, sono solo quattro quelli obbligatori e io devo vaccinarmi contro sei, siccome le due non obbligatorie erano più importanti delle, o almeno altrettanto importanti quanto le quattro obbligatorie, allora prendendo obbligatorie per sei con una sola puntura, una sola iniezione, si vaccina contro sei importanti malattie infettive. Dopodiché l'altro è il morbillo, la rosolia dà gravi conseguenze quando, per esempio, si infetta una donna in gravidanza, questo lo sanno tutti. La parotite, 25%, 30% di orchite, infiammazione del testicolo, in età post-tubere, nei maschi, e la varicella si sa quando prendi gli immunodepressi, quando si contagiano gli immunodepressi o persone adulte, può essere anche grave. Praticamente con una sola iniezione quadrivalente ci si vaccina non solo contro il morbillo e contro la rosolia, che nei confronti delle quali c'è un piano di eliminazione lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa, che avremmo dovuto eliminare queste malattie già nel 2015, siamo morosi, siamo in ritardo dopo l'Italia, dopo la Romania, è quella che per numero di casi di morbillo purtroppo è messa peggio. Ovviamente con un'altra punturina noi proteggiamo contro altre quattro importanti malattie infettive. Quindi con due iniezioni ci si protegge contro 10, tutto là. Dottor Rezza, lo ricordiamo, anche il numero verde del Ministero, che è 1500. Sentiamo alcune domande che sono state fatte via telefono. Il numero di pubblica utilità 1500 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16. Ministero della Salute. Sì, buongiorno, chiamavo per un'informazione. Io ho due bambini, uno deve andare in quarta elementare e l'altro deve fare la prima quest'anno. L'obbligatorietà è la stessa, esavalente e trivalente. Poi la differenza è nella documentazione, che per la scuola materna va portata entro il 10 di settembre, per la scuola diciamo elementare in su entro il 31 ottobre. La scuola dove vanno i miei figli, all'atto dell'iscrizione già la chiedeva questa documentazione. Volevo capire, la devo riportare? Si regola, cioè loro hanno fatto chiedere alla scuola, se ce l'hanno non glielo deve riprodurre. Ministero della Salute, 1500 vaccini, buongiorno. Io ho due bambine di 8 e di 12 anni che hanno due protocolli vaccinali diversi. 2005 sì. Il signore deve aver fatto l'esavalente, la meningococca B e C non era obbligatoria ma era consigliabile, e poi deve aver fatto morbillo, rosolia e parotite. La varicella non era obbligatoria. No, 2009. Quelle che erano disposte per la loro corte anagrafica. Buongiorno, Ministero della Salute. Senta, io ho un bambino nato nel 2008. Lei quale vaccinazione gli ha fatto? L'esavalente e morbillo, parotite e rosolia. Allora lei è in regola. Ah, quindi l'antivaricella, meningococco, pneumococco? No, sono facoltative. Basta la copia del libretto vaccinale da presentare? Se è chiara, sì, altrimenti allega un'autocertificazione. Ecco, queste sono alcune domande e risposte che abbiamo raccolto. È molto importante, posso... Sì, Dottor Rezzi, sì. Sì, no, volevo dirle questo. Ha sentito queste domande, no, che riguardano le corti di nascita cosiddette? Queste sono molto importanti, se secondo me, perché noi diciamo contro 10, in effetti oggi per chi praticamente è nato quest'anno valgono 10, ma per chi è nato negli anni precedenti fa testo il calendario vaccinale che era in vigore in quell'anno di nascita. Quindi non tutti devono fare rispettivamente 10 vaccinazioni, capito? Sì. Non vaccinati. Questo è molto importante, perché vedo che una domanda che ricorre spesso. Infatti, mi scusi, Rezza, allora la prego, siccome ci sono tante domande, se riusciamo a essere sintetici così ne evadiamo il più possibile. Paolo da Milano dice: al professore mi piacerebbe chiedere se 10 vaccini a bimbi piccoli siano una quantità eccessiva, a prescindere se fanno bene o male. Grazie. No, fanno solo bene, perché praticamente se un bambino non si vaccinasse contro 10 malattie infettive, probabilmente ne farebbe parte di quelle, per cui lo stimolo al sistema immunitario, il cosiddetto stress immunitario, di tanto si parla a proposito nei confronti dei vaccini, in quel caso sarebbe magari molto pesante. I genitori dei bambini, questa è un'altra domanda, che l'anno scorso hanno assolto all'obbligo vaccinale durante il primo anno di nido, devono comunque presentare autocertificazione entro il 10 per essere in regola entro il 10 settembre? Beh, comunque se l'hanno assolto, presentano l'autocertificazione, ma già praticamente hanno vaccinato, quindi sono completamente in regola. Quindi sono a posto, non hanno bisogno di ripresentare questa... A proposito dell'autocertificazione... L'autocertificazione è una cosa molto semplice, quindi se la chiedessero potrebbero comunque presentare un'autocertificazione, ma avendo vaccinato i bambini non avranno alcun problema assolutamente. Ma qualcuno, dottor Rezza, si chiede anche a cosa serve l'autocertificazione? Cioè qualcuno pensa, me la posso cavare così? Che cosa succede? Beh no, dopo dovrà dimostrare che è vaccinato comunque. Per cui è vero che sembra essere una scappatoia, ma è fatto semplicemente per facilitare i genitori, per non per dare il tempo per quantomeno di vaccinare ma soprattutto di dimostrare che si è vaccinato. Maria dice: la domanda è questa: chi ha il sottogruppo è più sensibile di altri vaccini, il sottogruppo sanguigno, che significa? No, assolutamente non c'è nessuna evidenza scientifica a questo proposito. Lei in parte appunto lo ha già chiarito, no? Tante polemiche si sono fatte nel tempo, soprattutto per la paura dei rischi, delle conseguenze delle vaccinazioni. Si è parlato di autismo, quante volte si è messo, no, in collegamento. Ovviamente lei dice in realtà i rischi non ci sono da questo punto di vista. No, ma è chiaro che degli effetti collaterali possono esserci. Perché Lorenzo da Venezia, mi scusi, dice: perché si parla sempre dei presunti rischi della vaccinazione e non dei rischi certi della non vaccinazione per sé e per gli altri? No, questo dà ragione, la domanda opposta. Sì. Ma a proposito dei rischi, no, è chiaro che gli effetti collaterali possono esserci. In genere sono effetti collaterali molto localizzati: dolore, punto di inoculazione, gonfiore, arrostamento. Può esserci, a volte per esempio può comparire una febbre, ma quella da epidemia la febbre passa. Dopo c'è anche un'evoluzione nei vaccini. Una volta, per esempio, contro la poliomielite si vaccinava con il famoso Sebin, cioè lo zuccherino con la gocciolina rosa. Sì, no? Sì. Il vaccino della scienza orale. E quella era costituita da virus vivo attenuato. Era importantissimo, perché la poliomielite dava epidemie devastanti, era invalidante, poteva anche essere letale, no? Quindi era importante vaccinare con quel vaccino, perché quel vaccino più velocemente degli altri creava anche immunità di gregge, quindi proteggeva la comunità contro la poliomielite. Però in un caso ogni 500.000, 1.000.000 poteva dare purtroppo un effetto collaterale grave, cioè una praticamente gli effetti della poliomielite stessa. E allora che si è fatto? Appena la poliomielite è stata eliminata dall'Italia, si è sostituito quel vaccino con un vaccino inattivato, il Solc, che non produce assolutamente quegli effetti collaterali. Quindi c'è anche un'evoluzione, che è o un'evoluzione tecnologica o un adeguamento alla situazione epidemiologica, proprio perché si vuole evitare il più possibile di avere effetti collaterali. I vaccini sono i farmaci controllati. La pertosse, prima si usava un vaccino che era molto immunogeno, cioè stimolava molto l'immunità, la risposta immunitaria. Si è deciso di passare a un vaccino che stimola di meno la risposta immunitaria pur di evitare gli effetti collaterali che quel vaccino poteva evocare. Quindi c'è anche una ricerca e c'è anche un'attenzione, diciamo, all'adozione, all'offerta di vaccini che siano il meno possibile associati ad effetti collaterali. Quindi di questo bisogna assolutamente tenere conto. Nessuno ha interesse a vaccinare dei bambini e ad avere in cambio effetti collaterali. Si vuole solo proteggere la comunità e gli individui. Barbara scrive: caro Roberto Giusa, è possibile far intervenire più spesso gli esperti che spiegano bene il discorso sui vaccini, come sta avvenendo adesso? Cara Barbara, ne abbiamo avuti per un lungo periodo. Ringrazio quindi ancora una volta il dottor Giovanni Rezza, grazie, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Grazie, dottore. E adesso ci prendiamo questa pausa, un po' di respiro di ricreazione, ci risentiamo tra pochissimo, vedo ancora arrivare domande, ma io sono giorni che vi dicevo di mandarle per tempo, e poi uno si scalda sentendone parlare, insomma adesso tra poco cambieremo argomento. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. È arrivata la giustificazione dell'ascoltatore Fabio, che prima mi accusava di non aver parlato di una cosa ieri di cui invece ho parlato ampiamente. Dice: chiedo venia, ero al cinema. Vabbè, questa giustificazione può andare bene, ma non, mi raccomando, non molte assenze. Siate soprattutto presenti qui tutte le sere alle 21 puntualmente per Effetto Notte. Tra poco un altro argomento importante. Intanto vi ricordo che tra i titoli principali ci sono queste catastrofe naturali: in Messico la più forte scossa da un secolo, almeno 36 morti, crolli in molte città, e negli Stati Uniti prosegue questa folle corsa dell'uragano Irma, 20 morti. Firenze, due carabinieri indagati per l'accusa di aver violentato due ragazze americane, ne parliamo tra pochissimo. E poi zanzare, casi di infezione di chikungunya, stoppa le donazioni di sangue ad Anzio, ne abbiamo appena parlato con il nostro esperto dell'ISSE, come abbiamo parlato anche di vaccini. Con l'attenzione del fatto che appunto gli accertamenti sono ancora in corso, però dai primi risulta una qualche fondatezza. Si tratta di un episodio gravissimo. Mettiamo ancora il condizionale, si tratterebbe, non abbiamo ancora avuto nessuna comunicazione ufficiale, ho parlato con il comando generale dell'arma poco fa, ma si tratta di un fatto gravissimo. Questo ha detto la ministra della difesa Pinotti poco fa questa sera a proposito di questa bruttissima storia che arriva da Firenze di due carabinieri accusati di violenza sessuale su due ragazze statunitensi. C'è adesso anche una dichiarazione del comandante generale dell'arma dei carabinieri, il generale Tullio Del Sette, interpellato dall'ANSA, ha detto: se fosse vero, cosa che auspichiamo tutti venga accertata quanto prima, si tratterebbe di un fatto di gravità inaudita che rende i protagonisti indegni dell'uniforme che indossano, che comporterà gravi conseguenze anche immediate sul piano disciplinare della condizione di Stato. Ne voglio parlare con Simone Innocenti, giornalista del Corriere Fiorentino. Ciao Simone. Ciao, buonasera. Ciao Simone, quindi sarebbe successo, secondo quanto hanno raccontato le ragazze ai magistrati, nella notte tra il 6 e il 7 settembre. Esatto, loro raccontano la mattina del 7 settembre, e la sera prima, durante una serata in discoteca, loro escono perché c'era stato un po' di movimento dentro una discoteca, dentro il show, che è una discoteca, l'unica discoteca all'aperto che in questo momento c'è in città. Raccontano di una serie di carabinieri che arrivano, che c'era stata una vista, non ricordano bene. Comunque, ma di fatto che in quel frangente dicono sempre le due ragazze di 22-23 anni di aver conosciuto due carabinieri che, dicono sempre loro, si offrono di portarle a casa. Loro accettano, e una volta entrate nell'androne del palazzo, una racconta di essere stata violentata nell'androne del palazzo, l'altra racconta di essere violentata dentro l'ascensore. Nell'ascensore. Vanno al vestura, li portano. Si attiva subito il codice rosa, vanno all'ospedale, le trovano positivo all'alcol test, cioè sono ubriache. Una di loro è positiva al narco test, cioè ha fumato. questo per, come dire, per dare anche una cornice alla, più completa alla cosa. Esatto. Anche se, Simone, leggevo poco fa che i reperti della polizia scientifica nello stabile dove vivono le due ragazze americane che hanno denunciato questa violenza, sì, confermerebbero la presenza di tracce biologiche compatibili con un rapporto sessuale nell'androne del palazzo. Quello sì, il problema qual è a questo punto? Il problema è capire se quel DNA... Ti sento male, sì, Simone, stasera i telefoni senti? Fanno così, sì, sì, prego. C'è da capire se quel DNA appartiene effettivamente o meno ai due militari indagati. È tutto che si gioca, perché diciamo abbiamo la certezza che tre gazzelle dei carabinieri sono intervenute di fronte al flow. Quella discoteca, sì. In quella discoteca. Sappiamo che c'è stata una, lo sappiamo dagli ordini di servizio che sono stati sequestrati. Sappiamo anche che i carabinieri sono andati dentro la struttura perché ci sono le telecamere di sorveglianza. Quindi sono entrati nel palazzo. Non nel palazzo, dentro la discoteca. Dentro nella discoteca, nella discoteca. E abbiamo la certezza che diciamo che dei carabinieri sono stati ripresi a parlare con delle ragazze dentro il flow, quindi senz'altro c'è, ma questo può far parte dell'intervento. Da qui in poi arriva il racconto del ragazzo, cioè loro dicono ci hanno portato in, dove stiamo noi, cioè in pieno centro. In pieno centro, questo vediamo, palazzo. Esatto. Sì. Vediamo le telecamere di sorveglianza della città, Firenze è abbastanza... monitorata, sì. Simone, quindi adesso vabbè, abbiamo visto dichiarazioni importanti sia del Ministro della Difesa che del Comandante Generale dell'Arma, aspettiamo naturalmente di capire come sono andate le cose. Intanto ti ringrazio e ti saluto, grazie Simone Innocenti del Corriere Fiorentino. A voi. Ciao Simone, viabilità. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti ne abbiamo parlato finora, quindi questa vicenda che arriva da Firenze è ancora tutta da chiarire, seppure ci sono queste dichiarazioni, dicevo, forti sia della Ministra della Difesa Pinotti che del Comandante Generale dell'Arma sui due carabinieri indagati a Firenze per aver abusato, presunti abusi su due ragazze americane, poi il terremoto fortissimo in Messico, almeno 36 morti e l'uragano Irma che continua a viaggiare potentemente attraverso gli Stati Uniti, 20 le vittime e poi per il maltempo in Italia, allerta meteo a Genova, rinviata la partita Sampdoria Roma. Ora ci colleghiamo invece con la nostra inviata a Venezia, Marta Cagnola. Ciao Marta. Ciao Roberta. Beh, momento del Toto Leone, scommettiamo. È chiaro, è chiaro. Domani si chiude, no, la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Ci sono in particolare, mi pare, due film che sono i più papabili. Guarda, no? Diciamo che i papabili... Stasera veramente McDonald's. Scusa Marta, siccome un ascoltatore mi scrive qualcuno vi sta sabotando, pagate la bolletta telefonica, stasera si vede che va così con le linee telefoniche. Ci sei Marta? Io ci sono. Oh, perfetto. Io ci sono, sono tranquillissima e non posso comprendere benissimo. Benissimo. Allora, l'americano Three Billboards Outside Ebbing, cioè tre manifesti a Ebbing in Missouri. Bellissimo, sembra quasi il titolo da Bert Muller, così lungo. Esatto, no? Esatto. Un film che, tanto per farti capire quanto è favorito, in Italia uscirà l'11 gennaio a ridosso degli Oscar, cioè già un film su cui si punta moltissimo anche per gli Oscar, con una grandissima Frances McDormand. Poi c'è The Shape of Water, La forma dell'acqua, di Benicio del Toro, ma ieri c'è stato anche Cindy Kashish, è piaciuto anche molto il film di Kashish, tre ore di film, è piaciuto moltissimo. Allora, tra quelli che potrebbero arrivare ai premi maggiori ci sono anche l'israeliano Foxtrot, il documentario di Ai Weiwei, Human Flow, The Insult e Suburbicon, cioè George Clooney. Marta, scusami, siccome avevo letto che è il Toto Leone più difficile della storia, sì, è per la sì. buona qualità o la cattiva qualità? No, per la buona qualità, ma soprattutto non c'è quel film per cui tutti sono impazziti. Ce ne sono alcuni molto belli, più o meno sullo stesso livello. Non c'è uno solo che spicca, ce ne sono tanti di ottimo livello. Io personalmente tifo per questo Three Billboards, per questo tre cartelli perché è pazzesco. E ti è piaciuto? Senti, ma gli italiani anche una per possibilità? Per gli italiani pare che qualche possibilità in più potrebbe avercela il film di Paolo Virzì, Elaine John, così si chiamerà in italiano. Magari una Coppa Volpi per gli attori, perché Donald Sutherland soprattutto è stato meraviglioso, anche Helen Mirren bravissima, quindi magari qualcosa, però davvero quest'anno è davvero tanto tanto tanto perso. E poi sappiamo che a Venezia c'è una giuria, quindi dipenderà molto dai gusti della giuria. Quello è proprio assolutamente, dipende da quello che amano e che hanno amato i giurati di Venezia. Secondo te gli italiani però non hanno speranze, no? Citavi gli altri io... film. Ma no. Davvero, pur avendo un favoloso film dei Manetti Bros e questo Virzì con dei grandi attori, io ho un po' paura. Niente da fare. Donald Sutherland se lo meriterebbe tantissimo. Marta Cagnola, lo ricordiamo che domani riparte anche il palinsesto invernale per il fine settimana, c'è il tuo Radio Tube alle 16, no? Come sempre. Dalle 16 alle 18, tutto un formato nuovo, un sacco di cose nuove, insomma, ascoltateci, perché abbiamo un sacco di ospiti anche in studio che ci verranno a trovare, poi tanta Venezia, tante cose. Domani alle 16 con Marta Cagnola, Radio Tube. Ciao Marta, grazie. Ciao, a presto. E ora è tempo di sapere che tempo farà con il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, caro Paolo. Buonasera Roberto, sì, che l'estate ci sta salutando e sai che non mi va, come diceva la canzone. Lo so benissimo, però guarda, in realtà è una pausa questa, l'autunno si prova, in realtà ce la farà pure, però poi settimana prossima tornerà anche il bel tempo. Però questo fine settimana arriva questa intensa perturbazione, quindi già domani ritroveremo delle piogge al nord nella seconda parte della giornata, quindi tra pomeriggio e sera. Però piogge che in serata saranno già piuttosto intense, quindi acquazzoni e temporaloni, quelli proprio di fine estate. E domenica il maltempo si estende a tutto il centro nord, e tra l'altro domenica potremo avere piogge importanti, diciamo così, al nord est e sulle regioni del Medio Adriatico, del Medio Tirreno, quindi il Lazio, la Toscana, con acquazzoni e temporali veramente in forte intensità. E quindi anche temperature in netta diminuzione. Tu pensa che domenica non andiamo oltre i 20-22 gradi. Io lo so che c'è stato tanto caldo, che tanti hanno contestato il fatto che io ami tantissimo il caldo, non ci posso fare niente, io corro anche a luna di giorno alle 13 al mare d'agosto e sto bene, e chiaramente sono, diciamo, un po' anomala, lo posso capire, però dici che un pochino di tepore, di clima mite tornerà, no? Tornerà, sì, allora sì. Guarda, l'inizio della settimana sarà ancora molto variabile, perché lunedì la stessa perturbazione raggiunge anche il sud e quindi temperature in calo anche al sud, ma da martedì, mercoledì, piano piano il tempo si risistema, e guarda che questo mese di settembre ci regalerà ancora giornate di stampo quasi estivo, quindi non è finita, diciamo così. Meno male, almeno per quanto mi riguarda. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Noi ci risentiamo per i titoli più importanti alle 22 come sempre.